Le venata ma centrale, quella cosa della gru è più seria del previsto. Abbiamo bisogno di mobilitarci in massa, immediatamente! Staccatela dal generatore! Fate presto! Ok, Gwen, ti dico un segreto. È la mia fotocopiatrice. Che cavolo ci fa quel coso nella mia inquadratura? C'è un cortocircuito, non riescono a fermarla. Chiamala con Edison al telefono, che tolgano la corrente a tutto il palazzo. Tutto a posto? Eccola di nuovo! Oddio! Ci fa lassù? Non lo so, l'ho vista ieri sera, doveva fare delle foto. Ma lei chi è? Sono Brock, signore. Edward Brock Jr. Lavoro al Daily Bugle. E esco con sua figlia. Okay.